L'uscita di questo film è per noi un momento molto importante, sia dal punto di vista emotivo chiaramente, e rivedere la storia di Stefano raccontata e raccontata così bene, anche interpretata così bene, e chiaramente da sorella è stata un'enorme emozione. E vedere quel film e vederci raccontato tutto ciò che noi assieme a Fabio sosteniamo fin dal primo istante e sapere tutto ciò, quanto ci è costato arrivare ad un momento in cui quella verità è entrata finalmente anche in un'aula di giustizia. Ecco, questo film è un po' innanzitutto restituire una dignità e una storia, un volto a mio fratello, ma è anche il frutto di tutto quello che noi abbiamo portato avanti in questi anni. All'inizio da soli e man mano sempre più persone si sono avvicinate a noi e anche con il loro sostegno. Questo film non è un film solo per Stefano, ma ha un valore enorme. È raccontare la sua storia, sì, ma è tramite la sua storia e dare una speranza a tutti gli altri Stefano. È un film estremamente vero e reale, è basato sugli atti, non c'è nulla inventato, è la drammatica storia di mio fratello in tutta la sua semplicità, anche perché non c'è bisogno di aggiungere nulla rispetto a questo. È la storia di un ragazzo di 31 anni di cui in quei 6 giorni sono stati ignorati tutti i diritti e che è finito, come tutti ahimè sappiamo, morto in quelle condizioni di dolore e da solo come un cane. Solo in realtà non era, si vede nel film, ma mai chiunque ha seguito la nostra storia lo sa, è morto in un ospedale detentivo, era circondato da tante persone, ha incontrato qualcosa come 150 persone, pubblici ufficiali, che si sono voltate dall'altra parte, non hanno fatto nulla per interrompere ciò che poi l'ha portato alla morte. Vedere Stefano interpretato da Alessandro Borghi è impressionante, ricordo che la prima telefonata che facemmo, la prima volta che abbiamo visto il film, è stata proprio a lui e gli dissi: ma come hai fatto? Tu non lo conoscevi mio fratello, eppure riesci, in alcuni momenti sembravi veramente tu. E credo che questo, come anche diciamo la scrittura del regista Cremonini, come anche l'interpretazione di Jasmine, sia il frutto e la dimostrazione della sensibilità di queste persone che hanno avuto nell'approcciare la nostra storia e quindi attraverso noi in qualche maniera conoscere Stefano. Il fatto di volerlo raccontare, soprattutto il riscontro che vediamo in questi giorni, soprattutto in queste ore, da parte delle persone, la voglia di vedere questo film, di conoscere attraverso questo film Stefano e la sua storia, è qualcosa che scalda il cuore, che sicuramente fa sentire meno soli e in qualche maniera ci fa comprendere quanto è importante la battaglia che io e Fabio e l'associazione, adesso anche le ragazze dell'associazione, stiamo portando avanti da anni, quanto è stato importante il lavoro che abbiamo fatto anche fuori da quelle aule di giustizia, con una fatica enorme, spesso scontrandoci contro tutto e tutti, perché quella verità così chiara ed evidente nel film, ma come anche semplicemente guardando le foto di Stefano, è stata per anni negata in tutte le maniere. Infatti, proprio mentre tu parli di verità chiara ed evidente, però nel frattempo quella verità mostrata anche dalle foto e ora nel film è stata negata per 7 anni di processi in cui si sono viste che oltre 40 udienze. A questo punto ti vorrei chiedere di fare un punto della situazione a cui si è adesso, perché al di là del film che racconta la storia, ma il racconto di questa storia nei tribunali e il modo in cui ad oggi viene riconosciuta, a che punto siamo? Beh, oggi stiamo facendo finalmente il processo giusto, diciamo il processo per quei fatti che vedrete nel film. Delle volte sembrava veramente di stare dentro un film, e parlo degli anni passati, quelli che fortunatamente ci buttiamo alle spalle, in quello che era di fatto un processo a mio fratello, sembrava lì di stare in un film. Io in aula di giustizia non c'ero mai entrata, ma insomma, mi sembrava così strano essere lì e sentire fare la maggior parte delle domande su Stefano, sulla nostra famiglia, sul suo carattere, sulla sua, tra virgolette, responsabilità nella sua stessa morte, ecco, perché quello di fatto era. Oggi fortunatamente no, siamo in una fase completamente diversa. Il problema è che tutto ciò che noi sosteniamo da sempre, che abbiamo finalmente in aula di giustizia dopo anni, in realtà si sapeva fin dai primissimi momenti. Come dire, da cittadina rimane davvero complicato comprendere perché, per quale motivo sia consentito che una famiglia si sobbarcasse di una battaglia così difficile. difficile quando si sarebbe potuto evitare e chiudere la vicenda da anni. Questo film lo dedichiamo a tutti quelli che speravano che di Stefano Cucchi non si parlasse più.